Ecco, la parola al dottor Maurizio Moncagatta, la poesia e il tempo del silenzio. Nel 1940, a Londra, Simone Weil, impegnata in quell'originale ripensamento della tragedia greca, che Venezia salva, l'incompiuta tragedia del pentimento dal sogno orrendo della forza, come ha scritto Cristina Campo nella prefazione dell'edizione italiana, scriveva in uno dei suoi famosi quaderni questo breve appunto. I versi non fanno centro se non creano per il lettore un nuovo tempo. E come per la musica, una poesia esce dal silenzio, ritorna al silenzio. Che la tragedia, ma più in generale la stessa parola poetica, mantenga un rapporto privilegiato con il silenzio è nozione certamente non nuova e sulla quale anche altri pensatori del nostro tempo sono ritornati. Basti pensare a Rosenzweig che nella Stella della Redenzione riconobbe proprio nel silenzio l'autentica stigmata dell'eroe tragico, per il quale esiste, egli scrive, un solo linguaggio che gli si addica perfettamente, appunto il tacere. O a Walter Benjamin, che queste stesse proposizioni riprese nel capitolo sul dramma e la tragedia del suo saggio sul dramma barocco tedesco. Su un altro versante potremmo ancora ricordare le celebri meditazioni di Mallarmé sul poema assoluto e sul frammentismo poetico, meditazioni che, come noto, si muovono nell'orizzonte della pagina bianca, ovvero di un'esperienza del silenzio, o le già più volte citate dichiarazioni di Pao Celan, che lucidamente riconobbe nella nostra epoca la tendenza dei poeti ad ammutolire. Tuttavia, rispetto a queste prospettive, rispetto al silenzio tragico dell'eroe senza Dio e senza comunità, o all'angoscia di Celan, come a quella di Wiesel, per una parola precipitata nella notte dell'orrore, rispetto alla sostanziale negatività di queste prospettive, nel senso che in esse il silenzio pare prefigurarsi come impossibilità e caduta della parola, il pensiero della Weil sembra aprirci ad un orizzonte più ampio, in qualche modo inedito. Si apre l'idea che la poesia debba, prima di tutto, instaurare il proprio centro in un nuovo tempo. Un tempo, scrive, che abbia un inizio e una fine. Un tempo dunque non estatico, non istantaneo, ma di trascorrenza, di puro movimento. E nella cui instabile dimora il verso, tra il silenzio dell'inizio e il silenzio della fine, alimentato esso stesso di silenzio, possa trovare luogo e dimensione. Tuttavia, molto di oscuro, molto di inespresso, permane in questo pensiero, che peraltro indica una direzione da seguire e che insieme cercheremo di percorrere. Qual è dunque, dobbiamo chiederci, il luogo in cui il verso, il tempo e il silenzio si legano in un'unica esperienza? Come può essere instaurato questo nuovo tempo della poesia, tempo altro, rispetto al tempo oggettivo, scandito dall'economia dei segni e dei tempi pubblici? E ancora, come può il verso che in esso risuona liberare la parola dall'orrore che chiude la bocca al poeta e lo consegna alla morte? Se c'è un'epoca che sembra aver patito di un autentico terrore del silenzio, di un vero horror vacui, paragonabile forse soltanto a quello dei nostri giorni, quest'epoca è sicuramente il barocco. Eppure, e senza alcuna intenzione paradossale, è proprio in una delle espressioni teoriche più forti e radicali di quel tempo, nel Cannocchiale aristotelico, il trattato di retorica che Emanuele Tesauro pubblicò nel 1654, in cui mi pare sia possibile rintracciare alcuni punti essenziali per disegnare la topografia ideale di quel luogo del linguaggio dove tempo, poesia e silenzio trovano comune ascolto. Il Cannocchiale aristotelico, sebbene debba la sua fortuna in larga misura al celebre trattato della metafora e al più breve trattato degli emblemi, è in primo luogo una originale teorizzazione di una forma linguistica, l'arguzia o argutezza, intesa come principio e fondamento del progetto semiotico della significazione ingegnosa. A questo proposito, la moderna storiografia letteraria ha da tempo riconosciuto nel Cannocchiale aristotelico l'attuarsi di un preciso disegno gnoseologico, definibile come il programma, perfettamente barocco, di una piena retorizzazione delle entità metafisiche di Dio, mondo e uomo. Basterebbe, a questo proposito, ricordare alcune delle proposizioni ontologicamente più forti del Cannocchiale aristotelico per comprendere come l'autentica materia del trattato tesauriano sia l'esaltazione della opacità della lingua, intesa come infinita possibilità di condensare senso e interpretazione, come decisione per il riconoscimento della linguisticità dell'essere e della verità. Così, ad esempio, nell'idea di un Dio arguto favellatore, che si rivolge agli uomini per via di simboli ed arguti enigmi. Così nel principio, sempre ribadito, per cui tutto ciò che è animato, tutto ciò che è dotato di vita, e cioè la natura, gli animali, gli spiriti, è fonte e veicolo di senso, ossia, scrive Tesauro, cagione efficiente dell'argutezza. Così, infine, e soprattutto, nella polemica di Tesauro contro la sciocca rabbia di chi, come Socrate, scrive Tesauro, rimprovera la natura di non aver aperto una finestra in petto agli uomini per vedere in faccia l'originale dei loro concetti senza interpretamento di lingua mentitrice. Qui, nel territorio di questo pieno riconoscimento della ermeneuticità dell'essere del mondo, non trova spazio nessuna teologia dell'ineffabile né alcuna ontologia negativa che pensi il perfetto silenzio, sottratto alla fallacia mondana dei segni, come la meta, il coronamento del cammino di ricongiungimento mistico. Tuttavia, al medesimo tempo, nessun credito è attribuito alle pretese di una piena ed irrevocabile conoscenza legata alla fiducia nelle possibilità denotative di un linguaggio inteso come piena immediatezza referenziale. Tra la muta retorica dei mistici e le facili certezze immanentistiche, Tesauro sembra accennare verso un terzo luogo in cui l'essenza unica e nascosta, il fondamento del tutto, ciò che di volta in volta la filosofia ha ricercato nella unicità di Dio, dell'uomo e della natura, sono indicati nella condivisa linguisticità, che permette la manifestazione e il riconoscimento, teoria di un fare linguistico ingegnoso, sottratto ai vincoli denotativi ed esposto alla possibilità di una continua e plurale espressione del senso. Ontologia della retorica, si è detto, è però anche esposizione dei suoi limiti, dei doppi limiti della retorica, che tracciano solchi nel dominio del linguaggio. Ogni teoria retorica, almeno a partire dall'opposizione aristotelica tra senso proprio e senso trasposto della significazione, è anche un'esposizione dei limiti del linguaggio, limiti interni, peraltro, che non segnano ripartizioni tra zone linguistiche ed extralinguistiche del senso, ma tra un centro del linguaggio, di ambito pubblico, retto dalle modalità logico-grammaticali del discorso, e una vasta periferia linguistica, in cui il segno scopre e sperimenta la ricchezza connotativa di un sempre diverso aver luogo. Così, anche nel canocchiale aristotelico leggiamo, la rappresentazione si può fare o col vocabolo nudo e proprio, il quale non richiede alcuna opera d'ingegno, o con alcuna ingegnosa rappresentazione che insieme rappresenti e diletti, onde nascono due generali differenze nell'orazione, l'una propria grammaticale, l'altra retorica e arguta. Apparentemente nulla di nuovo, dunque, se non la consapevole adesione ad un'antica tradizione che la cultura latina, ad esempio, esprimeva nell'opposizione tra sermo rectus, cioè discorso secondo natura, e la tecnica retorica dell'amplificatio. Tuttavia, rispetto a questa tradizione, Tesauro tematizza una nozione, l'arguzia, mai prima esplicitamente assunta, e non solo la tematizza, ma giunge a riconoscerle ruolo dominante e costitutivo nell'universo della significazione ingegnosa. L'arguzia è infatti chiamata vestigio della divinità nell'animo umano, gran madre di ogni ingegnoso concetto, è il miracolo, scrive Tesauro, grazie al quale le cose mutole parlano, le insensate vivono, le morte risorgono, le tombe, i marmi, le statue, da questa incantatrice degli animi, ricevendo voce, vita e movimento, con gli uomini ingegnosi ingegnosamente discorrono. L'arguzia è dunque la viva voce della lingua, poiché, scrive ancora Tesauro, tanto è solamente morto quanto dall'argutezza non è avvivato. È il movimento che, liberata la parola dai vincoli che la irrigidiscono in statua, nel marmo e nella tomba di una vuota ripetizione, la riconduce alla sua originaria, angelica e divina dimora, che è quella eminentemente poetica del migrare pellegrino all'apertura del senso. Aver avvistato questo territorio ancora inesplorato conduce Tesauro ad intravedere e a farci intravedere il discrimine che segna nuovi limiti essenziali e originari della retorica, ma che egli lascia ancora inindagati. La dinamica del movimento della significazione ingegnosa si articola nella relazione tra arguzia e retorica, ma questa relazione rimane un problema a cui il canocchiale aristotelico non offre alcuna esplicita risoluzione. È possibile tuttavia continuare a seguire il filo aperto dal testo e cercare di localizzare quel confine in cui la distinzione dei ruoli di arguzia retorica ci potrà mostrare qualcosa di quel luogo assunto a tema del nostro colloquio. Le ulteriori considerazioni a questo punto devono muovere dal riconoscimento del primato dell'arguzia sulla retorica, primato e precedenza che nel canocchiale aristotelico è esemplificato metaforicamente nel rapporto madre-arguzia, figlia-retorica. Abbiamo già citato il caso in cui Tesauro definisce l'arguzia gran madre dei concetti ingegnosi. Potremmo ancora ricordare che tra la prole dell'argutezza sono incluse le metafore, anche se, come vedremo, in posizione assolutamente privilegiata rispetto alla normale tassonomia retorica, i nomi figurati, gli anagrammi, le alliterazioni e le altre figure retoriche, o ancora il caso in cui nella loro totalità le figure sono chiamate vere figliole dell'argutezza. È sulla base di questa preminenza, di questa progenitura dell'arguzia sulle figure retoriche, che è possibile tentare di segnare quella seconda frontiera prima solo accennata. Se, come hanno mostrato le recenti teorie letterarie, la retorica, in quanto forma dei connotatori, secondo la definizione di Roland Barthes, deve essere intesa come la struttura che riorganizza, attraverso l'impiego delle proprie figure, lo spazio letterario, che è lo spazio della connotazione poetica, lo spazio aperto nel linguaggio tra il segno e la referenza, l'arguzia, proprio in virtù di questa sua dimensione pre-retorica, può essere intesa come quella stessa apertura, come lo spazio letterario mai pensato prima nel suo puro intervallo, nella sua piena autonomia, prima di ogni riassimilazione retorica. Dunque, se la funzione della retorica è quella dialettica di assimilare lo spazio letterario, trovando in cose di simile la simiglianza, come scrive Tesauro, dando così forma e figura alla sua apertura, l'arguzia è quella presa di differenza che dura il tempo del non riconoscimento, tempo in cui la parola, sospeso il legame referenziale, non significa né rappresenta ancora propriamente nulla, ma mostra semplicemente sé. In questo spazio, in questa sospensione di voce, la parola si mostra e qualcosa, in un breve lampeggiare, viene alla luce. Nei detti troppo chiari, scrive Tesauro, l'arguzia perde il suo lume. Siccome le stelle nell'oscurità lampeggiano, si smorzano con la luce. Ciò che in questo lampeggiare viene alla luce è il silenzio, e ciò che la pura parola che in esso risuona mostra è l'ascolto, in cui l'altro è posto come altro in ascolto. Questo silenzio è allora il medesimo di cui ha parlato recentemente Giavessa a Firenze, in cui, come egli ha detto, chi tace ed ascolta è forse più attivo di colui che parla, perché durante il silenzio a cui si sottomette per ascoltare l'altro, si pone anche lui delle domande alle quali cerca di dare delle risposte. Lo spazio letterario, lo spazio silenzioso e momentaneo dell'arguzia, è dunque lo spazio dell'interrogazione, di quella che Tesauro, nei termini ludici e dilettevoli propri del barocco, chiama la meraviglia di chi, dalla novità sopraffatto, permane sospeso nella lingua tra un significato caduto ed uno ancora non decifrato. Permanenza momentanea, ma densa di ascolto, tempo del silenzio, della meraviglia e dell'interrogazione, che ha luogo nel cuore stesso del linguaggio, nell'intervallo tra il suono e il senso, nella distanza dal riconoscimento e dall'assimilazione. La distanza è luce, cito ancora Jamès dal libro dell'interrogazione, lo spazio di tempo in cui penserai che non ci sono frontiere. Così, superato anche l'ultimo confine, siamo giunti a questo spazio libero per l'ascolto e l'interrogazione, a questo luogo oltre frontiera in cui la parola, il tempo e il silenzio si fletano nell'unica esperienza. Potremmo adesso ripetere le parole della Weil e dire che la poesia nasce dal silenzio, il silenzio dell'arguzia, e al silenzio ritorna, ma potremmo al tempo stesso rovesciare l'assunto, poiché, come mi è parso chiaro, il silenzio nasce, esso medesimo, dalla poesia e nella poesia ritorna, alimentato dalla parola che si libera alla meraviglia della sua novità e che instaura ed apre per l'ascoltatore il nuovo tempo momentaneo e silenzioso dell'arguzia. Ed è infatti la metafora che Tesauro attribuisce il compito di creare questa apertura nel linguaggio, alla metafora barocca e alla sua forza sovvertitrice dell'ordine semantico, fondata sulla poetica del mirabile, ovvero, come scrive Tesauro, sulla rappresentazione di due concetti quasi incompatibili, e come tale assai più vicina alla dimensione dell'enigma, che nella poetica Aristotele definisce come un mettere assieme cose impossibili, che a quella della metafora aristotelica. Dalla parola al silenzio, dunque dal silenzio alla parola. Il silenzio non è né l'origine presupposta, è sempre taciuta in ogni dire, nell'estremo compimento dell'avventura linguistica. Stabilire preminenze o primati tra il silenzio e la parola è da questo punto di vista privo di ragione. La genealogia di questa relazione è quella di un evento sempre ripetibile che costituisce la condizione stessa dell'apertura del senso, annuncio e svelamento dell'uno per l'altro, il silenzio come ascolto e interrogazione della parola, la parola come apertura ed esposizione del silenzio. Il nuovo tempo della poesia è il momento e il movimento di questo trascorrere, dal momento del silenzio al movimento della parola, dal movimento della parola al momento del silenzio. Il silenzio dunque è l'autentico ritmo del respiro del verso e delle parole, e al suo luogo poetico in quella spezzatura della catena semantica, in quell'arguzia del senso che ritroviamo tematizzata anche nell'esperienza dell'enjambement, esperienza anch'essa di una sconnessione tra il suono e il senso, e che, secondo un'acuta interpretazione, costituisce il nodo essenziale di ogni evento poetico. Delle tre domande poste in apertura, le prime due riguardavano l'ambito poetico, la terza quello etico. Alle prime due credo che l'esposizione della struttura temporale dell'arguzia abbia offerto una sufficiente chiarificazione. Resta la terza, assai più problematica questione, nel cui ambito avviene il difficile incontro tra la poesia e l'etica. Dunque ci chiedevamo come liberare la parola dalla dicibilità del male. E in che modo potrà la poesia costituire il canone e la trama di una parola non totalizzante, intimamente non violenta? Come pensare, cioè, un linguaggio la cui musicalità, come ha scritto Celan, sia laddove non ha più niente a che fare con quell'armonia che risuonava ancora più o meno indifferentemente con e accanto alle cose più terribili? A questo punto è bene che la teologia assertoria del rispondere ceda all'intensità del domandare, perché non di una questione tra le altre mi pare si tratti, bensì della questione fondamentale del pensiero, nodo irrisolto di ogni esperienza di parola, dal momento che ciò che qui è in gioco è la possibilità stessa del linguaggio, la possibilità di continuare a pensare una comunità riconciliata con le proprie parole. In conclusione, dunque, e solo in esergo a ciò che queste domande postulano, vorrei ancora richiamare alcuni rischi e alcune possibilità nella via verso una possibile convalescenza delle parole. La questione di fondo è evidentemente quella già sollevata da Adorno sulla possibilità di continuare a scrivere ancora poesia dopo Auschwitz. È necessario continuare a scrivere, è stato risposto, a tramandare e a tradire il ricordo, e questa è proprio la tragedia di questo racconto, purché la scrittura cessi di essere la stessa di prima per farsi essa stessa lo sensorio sul quale la parola possa esporre la propria ferita, la propria lacerazione. Ebraicità della scrittura, ma anche qualcosa di più generale. Qui, come ha osservato Derrida, la situazione ebraica diventa esemplare della condizione del poeta, dell'uomo e della scrittura. Dunque di una ferita originaria si tratta, che da sempre lacera il senso e ne infrange l'apertura, ferita della storia e non solo nella storia dell'uomo e delle parole. Una ferita che ha il medesimo taglio di quella distanza che abbiamo visto emergere dal vuoto di rappresentazione che costituisce il centro silenzioso della poesia nel tempo momentaneo dell'arguzia. Tempo di meraviglia, secondo il vocabolario barocco e cristiano di Tesauro, fonte della inesauribilità dell'interpretazione dei segni concretamente scoperti, scrive Tesauro, che il divino ci invia, ma anche deserto e separazione, tempo di povertà, di abbandono, di inquietudine e d'angoscia. Ciò che in esso ascoltiamo, ciò che lo sprofondare della rappresentazione nella vacuità della sua infondatezza ci indica, è la tramatura di un'assenza, la distanza di una non coincidenza, di un intervallo irriducibile del senso che mai nessuna identità referenziale di parole e cose riesce ad occultare. Solitudine, distanza di Dio e della creatura, possibilità dell'incontro e del dialogo, ma anche di un'erranza infinita, di un eterno smarrirsi nell'abbandono. È l'abisso di questa differenza, il vuoto di questa lacerazione, angoscia o meraviglia, che la poesia espone e porta alla parola. Cito ancora Jabez dal libro dell'interrogazione. Jukel, parlaci del silenzio, che è il termine e il principio, l'anima delle parole, come il cantore e il martire, nel momento prescritto, sono l'anima del mondo. Tuttavia, perché la poesia nel proprio movimento possa trarre dal silenzio parole trasfigurate, è necessario che essa si liberi dalla minaccia più radicale, quella che la trascina verso un silenzio che non è più nulla, non è ritmo né tempo, ma solo negatività e caduta nel non senso. L'uscita dalla potenza della rappresentazione, ha scritto recentemente Giorgio Agamben, implica un compito poetico e una decisione etica. Il modo di questa decisione è ciò che ci resta da pensare. La minaccia che appena oltre lo spazio poetico torna ad insidiare la parola alla forma di una metafora irrigidita e i modi di un antico fraintendimento deriva dall'idea che ogni conoscere sia essenzialmente un vedere e il vedere è la condizione dell'afferrare. Tutti gli uomini aspirano per natura alla conoscenza, né il segno l'amore che portano per le sensazioni e fra tutte preferiscono le sensazioni che hanno attraverso gli occhi. Così, ribadendo quel primato della vista già affermato da Platone, si apre il primo libro della metafisica di Aristotele. Lumen naturalis e lumen gratiae, facoltà della ragione e dono della rivelazione, conoscenza logica come rappresentazione e intuizione celeste come illuminazione. Queste endiadi, così costitutive nella nostra tradizione culturale, trovano il loro comune fondamento in questo primato della vista sulla voce e sull'udito, in questa confusione tra il parlare e il vedere. Poeticamente parlando si può dire che l'occhio è più vicino all'animo che l'orecchio, scrive il neoclassico abate Dubois. Il linguaggio non può che contare e nominare miseramente i cambiamenti, ma non renderci visibili le trasformazioni continue delle gocce d'acqua. Il romantico Buchenroder, e questa è veramente una singolare coincidenza di opposti. Il linguaggio è luce e il pensiero è linguaggio. In questa nota proposizione plotiniana, che sembra assumere la parola ai più alti splendori della conoscenza, si cela invece, mi pare, l'insidia della caduta, la nozione di indicibilità, l'idea di una realtà sottratta ed indipendente dal linguaggio e che il linguaggio non potrà mai compiutamente raffigurare. Quello che uno vede, si chiedeva già Gorgia, come potrebbe esprimerlo con la parola? Pensare alla conoscenza come visione significa condannare il linguaggio ad un continuo scacco, al perpetuarsi di una perenne inadeguatezza. Il silenzio che da questa sottomissione nasce è la definitiva fine dei discorsi, morte della parola nella totalità della visione, misura dell'impossibilità di pensare ancora alla possibile coincidenza di comunità e comunicazione. Il fraintendimento dunque non è ingenuo né innocente. La connessione del vedere e dell'afferrare, la relazione intenzionale dell'atto e della volontà, è la condizione di un sapere totalitario che pensa al rapporto verso l'altro in termini di appropriazione, di semplificazione, ancora un termine quotidiano, dell'alterità dell'altro, riduzione e adeguamento ad uno del differente. L'intenzionalità, ha scritto Levinas, identificazione dell'identico in quanto stabile, è una mira che vede diritto come un raggio il punto fisso dello scopo, presenza del ritrovabile che il dito indica, che la mano afferra, mantenimento o presente, in cui il pensiero, pensante a propria misura, raggiunge ciò che pensa. E dall'apprensione comprendente di questa veduta e della sua violenza appropriatrice, che la parola mi pare debba essere redenta. Solo liberando il linguaggio dall'intenzionalità del rappresentare e dall'obbligo di ridire ciò che lo sguardo vede ed assegna, è forse possibile pensare l'evasione dalla grata e dalla tomba in cui la realtà costringe il linguaggio e che porta il poeta al silenzio. In questo senso il mutismo poetico di cui parla Celan e forse lo stesso tragico epilogo della sua poesia appare largamente dominato dall'idea della sprachditter, del linguaggio come grata, come schermo inadeguato a cogliere la percezione visiva. L'occhio viene posto al centro dell'attenzione, ha scritto Montesquieu commentando questa raccolta di poesie di Celan. E non solo esso, ma anche il linguaggio. Diversamente da prima, quando aveva il compito di essere mediatore del mondo, ora questo diventa esso stesso un problema. Ciò che può essere ancora colto dall'occhio dimostra troppo predominio per poter essere descritto con la lingua. Sarebbe necessario, sono ancora parole di Levinas, un pensiero che non sia costruito come relazione che collega il pensatore al pensato, un pensiero non costretto all'adeguazione del visibile, alla mira intenzionale alla quale esso risponderebbe nell'intuizione della verità. Sarebbe necessario un pensiero in cui non fossero più legittime le metafore stesse di visione e intenzione. Etica del linguaggio, dunque, in quanto restituzione del linguaggio al proprio ethos, al proprio luogo abituale, che è l'ascolto e il corrispondere muoversi di parole e silenzio, come non il vedere e l'afferrare. In questa direzione, credo, vada inteso quel compito di portare il linguaggio, in quanto linguaggio, al linguaggio, che lei attribuiva al pensiero a venire. Ma il cammino verso il pensiero che viene può avere anche l'orecchio teso all'indietro, verso quelle antiche comunità etiche, comunità di parole e di canto, fondate nell'accordarsi, nelle voci, nell'invocazione, nel ringraziamento, da cui eco ancora ci giunge dalle lontananze della nostra tradizione poetica, la cui espressione più limpida è scritta nelle semplici lazze volgari, nelle semplici stanze della parola del cantico di Fratettura. Ringraziamo per questo contributo che presenta un notevole, un pregevole anche spessore storico e nel contempo una ricchezza di testi, e anche per aver chiamato la nostra attenzione sulla potenza, sul primato dell'arguzia, l'arguzia come tempo della meraviglia dell'inaudito. Noi ci troveremo stasera per chiudere i lavori alle 15.30 in questa sala per ascoltare ancora tre comunicazioni finali, quella del professore Gian Piero Boff, Aurelio Rizzacasa e Santino Capaccio. A stasera.